Sotterranei Street Album, Pixel Rap qui, Eldon sul beat, ha. E siamo pronti ragazzi, Pixel, in free download, scaricalo su www.myspace.com/pixelrap. Oppure cerca su Facebook, Pixel Official Page, ha. Cerca Pixel.